4 E. Ascolta e completa secondo il modello. Esci subito? No, esco più tardi. Esci adesso con me? No, esco più tardi con Mario. Esci alle 9? No, esco alle 10. Uscite più tardi? No, usciamo adesso. Uscite subito? No, usciamo dopo. Uscite prima stasera? No, usciamo alla solita ora. Lei esce alle 9. Loro, invece, escono alle 7. Lui esce in ritardo. Loro, invece, escono in anticipo. Lui esce spesso. Loro, invece, escono raramente.